diciamo della presenza. Ora canale 10, ora canale 10. Con pugno e cotto, con pugno e cotto. E beh, la tua vita. E beh, beh. Come va, come va? Sì, un po' a piedi, un po' in macchina. E ci va un po' tutto, eh. Gava, gava. Meglio così, meglio così. Via. Tutto pieno di propagazione, nei canali alti. Su 23 sopra. C'è un contest, c'è tutto numeri, manco non me l'attivo, tutto numeri. Sul 23 di sopra. Sì, a 23 di sopra, sì, c'è un contest, c'è. Il risposta è un pochettino indietro, però, è la frequenza, capito? E c'è un contest in banda laterale in USB. Sì, adesso vado e me li ascolto, vedi. Grava, grava. sera. E allora, adesso bene. Mi stavo riposando, mi fa male sempre la schiena, sono crepato. La vicaia è Garronia. Lo so, purtroppo. Sono da un po' di tempo che sono con questo mal di schiena, sempre fisso. Basta fare un po' di iniezioni, io ti passo. Voltare nei muscoli. Sì, non lo so se lo posso fare. Tanto. Non è che tu c'è l'alimentatore da vedere, la tagli da 35 a 50. No, negativo. Ne ho uno solo ed è switching. Basta. C'ho solo quello lì. Se io me lo vendo poi come trasmetto. No, vabbè, stavo dicendo se è in più. Perché io ne ho due sotto due partiti. Cioè, uno fa rumore di alternata. E quello lì bisogna vedere se sono da stringere nella mele. Come fanno a essere partiti così gli alimentatori? Boh, ci sono furbi di grossi. Quello della Proxel con la 50 ampere andava in protezione, si spegneva, adesso proprio non si accende più, allora fa un appiggio e poi si spegne. Vanno controllati a vedere, avranno qualche difetto. È nuovo, nuovo, nuovo. Che tu lo vedi fuori e... dopo. Anche l'altro, quello grande che ho, di quelli antichi, è uno gatto bello, ma qualcosa col trasformatore in terra, tutto gatto, nuovo, nuovo, perché l'ho tutto rifatto, tutto ripetinciato bene, tutto fatto bene, ragazzi. Adesso mi sta facendo alternata, ma è pesante di trono. Quelli di concessione vecchia, sì. Ne avevo uno da 40 amperi io che era pauroso. Io me l'ho venduto quello. Quello lì sì che era buono, perché quello lì l'avevo fatto modificare. Siccome non gli dava 40 amperi, c'era scritto 40 amperi, però non gli dava. E allora non andava bene per il mio apparato, capito? Modificare. Era una relva, idea che si è diventato così. Sì, già me lo ricordo, quello della dettagli che c'avevi sotto la scrivania, già me lo ricordo. Questo qui invece è la Intec, è quello della Intec che c'ha 40 ampere lo stesso. Però esce con l'alternata, capito? Non so da che cosa abbia preso. E magari vibra l'alimentatore, il trasformatore. Mi... E non è per stringere la rete, che ci sono delle viti da stringere. Ma ci vuole anche una colla, ci vuole, oltre alle strette le alette, ci vuole anche una colla, non mi ricordo come si chiama, per gli alimentatori proprio, per non fare quel difetto lì. Normalmente come ti si chiama? Neanche la fusata. Buonasera. Infatti il mio era una belva l'alimentatore, era modificato, già li dava i 40 ampere, però l'ho dovuto far modificare perché c'era scritto 40 ampere quando io ho comprato nuovo, però non li da zia, si busava un preso. Ehi, ehi, avanti! Alfonso, buonasera! Buonasera a lei! E allora? E allora? Adesso mi sono seduto un attimino. Ascolta Giacomo, ma ti sta arrivando di radio, segnale, radio, bene? Si è un po' saturo qua, un po' mangiata la radio, ma leggermente non sa. Guarda adesso, migliorato. E via. Va bene così adesso, è ottimo. Segnale 9.30. La radio va bene? Sì, sì, accettabilissima adesso. Prima era un po' saturo. Ehi, come tiro sulla potenza del Galaxy? Non so perché fa così, forse è troppo di rado già nel gioco. Ciao, Tatali. Ciao. Là. Sarà troppo tirato, sì, se va in saturazione. Troppo tirato era. Che cosa vuoi che ti dica? No, il gas, la potenza io la metto a zero proprio. La metto proprio chiusa per usare il lineare, se no ti fa saturare. infatti adesso l'ho chiuso anche io. Allora, vediamo. Ecco qua. Così salto Leo, va bene. Oh, va. Guarda, se salto Leo va bene così. No, che va bene. Chiara, cioè non ne senti saturazione, va bene, amplificata, normale. E l'ho chiusa tutta anch'io. Sì, adesso va meglio, va. Va, anda bene, tutto chiuso deve essere, se no si satura. La propria appena appena va a liquidare al massimo 200, se ne è 300 si satura. No, io non so come dire, né 300 né 200, è la potenza del galassi. Come è la potenza del galassi? Cioè, non la stai usando nel lineare né nulla, mi stai dicendo? No, io sto usando il Galaxy, questo Galaxy è modificato, questo Galaxy ha 50 watt, capito? 50 watt, è stata fatta una modifica come quello di Massimiliano, è già 50 watt, quindi devo ottenere la potenza praticamente 1, 2, la terza attacca, ecco, c'è scritto 10. Guarda adesso come sto uscendo io, 1, 2, 3, prova. Bene, è aumentato, va bene. Ma no, tutto chiuso, guarda se adesso prova prima, guarda. Adesso lo sta aprendo, guarda come va. Si apri la saturazione. No, io non ho lineare, già che lineare c'è un po'. Sono tutti conservati lineari, non aggiungo qua attacca lineari. Sì, ma stava saturando poco fa, come mai? Non lo so, non lo so. Devo attaccare il rosmet, non si sa mai che sia più tirato del solito. Capito? Perché prima lo tenevo a metà ed era intorno ai 40 watt, 35 watt. Questa quello te l'ho chiesto perché me ne sono accorto. Non stava modulando bene, mi capito? La lancetta del microfono. Diciamo che la modulazione del Galaxy non è questa qua, è appena appena più sporca della modulazione normale, però già è accettabile, dai, avanti la tappa. Io è tutto chiuso qua lo stesso, il mio 2 watt e mezzo. Chi è che sta fischiando? Tu sì. Sta uscendo un innesco, un forte innesco. Guarda che invece lo spezzone messo male qua. Gianni, quanto ti arriva a te con questo qui? 9,30. E quindi se lo alzo non puoi vedere se aumenta. Sono al massimo, prova a vedere se aumenta qualcosa in più, se va sul BB. Superi il più del 9,30, per il prima è un po' meno del più, adesso c'è più avanti del più. Ehi, ho capito, va. La radio buona è. Tappa. Trommessa adesso. Non sono io, no. Claudio. Magari c'è lo spezzone messo, qualche spezzone messo male, è per quello che gli fa quel difetto. Aspetta un attimo. Guarda a vedere come va l'eco. Stoppa c'è giù. Guarda, 1, 2, 3. Che cazzo, così lungo, 1, 2, 3. Vai, parla. Sì, attenzione, canale 10, cambio. Attenzione, canale 10, cambio, cambio. Cioè, bello, leggero, leggero. Visto che ce l'ho anche io il lecca-lecca. Io ne ho tanti lecca-lecca. Guarda, ti piace questo beep? Bello. Corto corto, eh? Che apparecchione? Lo devi vedere. Io ne ho uno qua, incantevole, Poi a guardartelo. Si chiama Cobra 200 GTL-DX. Vai a vedere. Ehi, vabbè, ora non ha giocato. Ho tolto il tutto, solo l'eco è rimasto. Ecco, aspetta un attimo, mi stanno parlando. Vabbè, quindi? Claudio, ci sei? Sì, io sto parlando. Parla. Non devo parlare. No, stavo controllando qua. qualcosa? No, non sta scendendo bene di radio, c'è tutto sciatto. Tutto sciatto? Ma sei sciatto, ci non ci toccato nulla. Ma togli tu come lo sì. Ma tu che radio stai usando? Il Galax. Quello che non c'è a te, io non ho toccato niente. Cazzino ieri andava bene, ma c'è usato. Dai, non caio se tocchi a riccio. Già mi dica io, non te lo fate mezzo. Prova la casa. Anch'io a te ti sento leggermente saturo, ma comprensibilissimo. No, ma io sono staccato, non c'ho nulla attaccato. E io cosa c'ho attaccato? Ho detto che non c'ho niente. Io non c'ho assolutamente niente. Ma so cosa dico, la radio non è chiara, cioè io già lo sai che ti dico quello che sei. Adesso è chiara, eh? Fai un passaggio lungo. Cioè, non è chiara neanche adesso la radio, è impossibile. Adesso sì. Non lo so. Non so che dirti, non so che farti. Adesso sei chiaro. Vuol dire che c'è troppa visione tra me e te, non so cosa dirti. Così al massimo la potenza della radio, della, sì, la potenza. Poi un passaggio lungo che l'ascolto a me. Così al massimo la potenza, 40 watt modulati. Ora. E adesso c'è sto scendo bene, dai. Ma poco fa, no? Beh. E adesso? E così bene, dai, sempre ricevuto benissimo. Cazzo, c'ha una ricezione stereofonica questo apparecchio, pochi minigiochi ricevo così bene. Anche questo riceve bene, non la stessa radio, infatti io colonia esterna non ne ho mai messo. Non ne ho mai messo colonia esterna, tutti uguali sono. C'è un tic, ma vabbè. Tartarino! Ui! Che te sei battente? Mi sto controllando la glicemia. Io ce l'avevo a 111. 111 prima di pranzo, poi ho mangiato e non lo so come sono misurato. 128 ce l'ho adesso. Ehi, già vabbè. Cioè, mangiato anche. No, devo mangiare. Ma già vabbè, dai, 120, 128, ci mettere la firma, me la so per lui. Ehi, lo so. Dai, che hanno dato 300, 400. Oddio. Quindi, te l'hai fatto modificare. Cosa?